Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Cari amici, il vostro programma sta per iniziare. Questa è Eclettica, in compagnia di Giulio Caperdoni, tutti i giorni della settimana fra le 19 e le 20. Eclettica, che non è solo musica, ma è anche letture ed è anche cinema. Eclettica, che ha il suo spazio su internet, myspace.com/eclettica, oltre ovviamente alla presenza sul sito istituzionale della radio, di cui ricordo l'indirizzo www.radiorockfm.com. C'era un grosso moscone dorato che ronzava lungo la finestra del pianerottolo. I muri odoravano di tinta fresca. Con una virata improvvisa, il moscone, mordendo felicemente l'aria, individuò lo spiraglio tra i vetri socchiusi. Sparì. Mi affacciai anch'io per buttare la cicca. Il cortile sotto era deserto. Due magre spanne di cemento nel sole di fine agosto. Più lontano, il verde consunto delle colline, oltre il fiume, sfumava in un cielo opaco. Con le mani controllai la bustina ben ferma sulla fronte, il nodo e la giusta caduta della cravatta, prima di suonare. Questo era l'incipit de Il buio e il miele, di Giovanni Arpino. Then you'll have nothing. I've never seen a man so broken up over a woman. What did you say her name was? Cara? Sarah? Clara. Clara! Excuse me. Ma'am? But was this man tall, with great big brown puppy dog eyes and long silvery flowing hair? You know him. Hamish! True love regrets to inform you. There are certain things you must do to perceive his face in the stains on the wall. I didn't know what time it was at all. I didn't know what time it was at all. Phone hands. Since you've been gone, since you've been gone, me and the king have been steadily growing apart. Down the hall. I didn't know what time it was at all. I didn't know what time it was at all. Phone hands. Is true and what is totally out of control. I didn't know what time it was at all. I didn't know what time it was at all. Ho deciso di andare a riprendere Nothing da parte di Keith John Adams per aprire Eclettica quest'oggi, una canzone che era da qualche settimana che non era presente più nelle playlist di Eclettica, dove invece è assolutamente un punto fermo Foam Hands, canzone che si è appena chiusa da parte di Destroyer, nuovissima canzone da parte di Destroyer. Un'anticipazione, quella che sta per arrivare, di un album in uscita il 29 di gennaio, album che uscirà per Kill Rock Stars. Lei è Thaun Nguyen, si fa accompagnare da un trio tutto maschile il cui nome è Get Down, Stay Down, e l'anticipazione consiste in Bag of Hammers. I have this bag of hammers, and I won't ask. bit more. The trick is you do not get on that interstate bus. The catch is you stay and see what becomes of us. Shake, shake. Grida di donne li sorpresero, dietro l'albero. «Che è stato?» domandò Sabrina mettendosi in ginocchio. Le grida continuavano, tremende. Sabrina scrutava, una mano sulla bocca per la paura. Finalmente videro. Prima le figure nere di tre donne che correvano disperatamente lungo il ciglio della collina. Poi due uomini che in fretta, piegando sulle gambe, trasportavano una cosa scura e lunga, una bara. Per un attimo apparvero, dondolando contro il bianco del cielo. Poi furono inghiottiti dal verde polveroso dei noccioli, dove era il cimitero. «Un suicida!» fece Gaetano Castiglia, ritornato a sedere. «E lo vanno a seppellire in terra sconsacrata». Questo era l'incipit di «Un delitto d'onore» di Giovanni Arpino. Thank you. I thought we could settle this like men. You thought wrong, dude. I'll start with you. If you start with me. We can start together, maybe start a family tree. Like a couple of words starting with the same letter. I want to lay to rain with you. I want to sound clever. We don't quite fit. We don't really. Got a good meter going when we grind. We slant to the beat and we slant to the melody. It feels like we fit when we're dancing on MTV. You and I are meant for each other. A literary device. Alone we're just, but together we're lovers. I will miss. It hurts, but it's all worth the pain. Oh, if only for the little letters. Hearts by my name. I love you forever. Oh, I love you forever. What I'd give to have spent these last 4 years together. You and I are meant for each other. A literary device. Alone we're just put words. Together we're lovers. Together we're lovers. Bella, mi piace questa canzone tutta con strumenti giocattolo che vi ho presentato per la prima volta la scorsa settimana, quella corta come la precedente. The Pterodactyls assieme a Kimi e Dawson per quanto riguarda Devices, il brano che ci siamo appena ascoltati. E prima ancora My Robot Friend, anche in quel caso una bella canzone, in quel caso una bella canzone elettro dal titolo Robot High School, per un artista che si presenta sul palco in maniera perlomeno appariscente. Già ve ne ho parlato, ve ne ricordate. My Robot Friend, è questo il suo nome. Ed ora diamo spazio alle cover. Spesso le cover hanno spazio qua in Eclettica, perché solo le cover riescono a regalare un certo tipo di sensazione che non tento neanche di descrivervi, ma ve la faccio semplicemente provare. Qui è Marissa Nadler che rifà una canzone dei Bright Eyes. Opera colonial, the movement is unstoppable, like the body of a centerfold, it spreads to the counterculture copyright. Get your revolution at a lower price. We'll make believe and throw the fight. Loading bags, aerosol cans, southbound buses, Peter Pan. They left it up to us again. I thought you knew the drill. Bloody bath to drain. Non tutti i giorni ci si può svegliare ridendo, come diceva quel tale in coma. Così seppe darsi la giusta spinta tossicchiando Carlo Botero, vedovo, 62enne, maestro elementare in pensione, nel suo ridestarsi mattutino. Una pendola sovraccarica di falsi marmi e dorature indicava le 8 in punto, come sempre. Botero indagò tra luci e forme della stanza. Un insulto ostile gli si introdusse nei ginocchi, nelle tempie. Un segnale malevolo, apportatore di fastidi. Avanzò comunque un piede oltre il lenzuolo, subito avvertendo il caldo estivo appiccicarglisi addosso in unta pellicola. Cercò di non sgualcire troppo il giaciglio. Secondo una delle sue norme di vita, bisognava rifare il letto ogni 4 giorni. 5 anni di vedovanza avevano costituito per lui indispensabile ammonimento. Questo era l'incipit del Fratello Italiano di Giovanni Arpino.